se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Andiamo anche all'estero per lavorare, per imparare un lavoro, perché se mi dite che 1200 euro, 1500 euro sono un traguardo, ma io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese, onestamente, se molti, quello è il traguardo. Lo stipendio di un ragazzo che lavora da noi, escluse le mance, è di 2500 sterline al mese. Poi le mance vanno tutte sulla massa salariale che si dividono, sono ragazzi che portano a casa 5-6 mila sterline. No, credo che quello che ha detto il ministro può anche essere un po' vero, no? Perché è molto importante connecting people, no? Quando, perché se uno è bravo normalmente ha delle conoscenze di gente brava, se uno è scarso conosce gli scarsi. Priatore a carta bianca dalla Berlinguer, capito? Come si fa a vivere con 1300 euro al mese? Straccioni, no, straccioni non l'ha detto questo, questo lo aggiungo io. Amico mio, ma chi vuoi prendere in giro? Caro presidente De Luca, caro Vincenzo, qua Briatore che ha parlato, ha detto questa cosa, io non ho detto nulla. 13.000 euro netti al mese. Netti, De Luca, questa è la paga che ha chiesto qui a Radio 24 per condurre nella conduzione 4.0 prossima, ormai imminente, qui a 24 mattino. Metteremo insieme tutti gli stralci del presidente della regione Campania e lui condurrà il mio posto. Straordinario. Per quella cifra lì, mica com'è 1300 euro. Come si fa a vivere con 1300 euro? Non l'ha detto, non c'era del disprezzo, per carità, no, ma proprio, come dire, un senso di pietà anche di Briatore verso tutti questi giovani o non giovani, anche straccioni, ma dai, su 1300 euro al mese. Già, guarda, arrivano i messaggi. Se desiderate faccio a Briatore un master di come si vive a 1300 euro al mese. Marco da Giulianova. Ma insomma, A Dubai ci sono 22 gradi, fa freschino oggi, ci dice il nostro ascoltatore. Mentre Trinità, Silvana da Trinità, Lorenzo, Trinità. Sì, metti su Google, non so se ti esce come prima cosa Trinità o un paesino, però cerca meglio. Trinità, sì, Silvana, 6 gradi, esce Terence Hill. No, non dovrebbe uscire Terence Hill, anche su Trinità dovrebbe uscire un'altra cosa, non essere blasfemo! A Prato ci sono 8 gradi e nuvoloso. Vabbè, il resto del messaggio non lo leggo, caro ascoltatore. Cuneo, Trinità, Cuneo. A Polpenazze del Garda, senti, guarda un po' un attimo, 10 gradi. Polpenazzi, anch'io posso immaginare il Garda, Brescia, ma può essere Brescia, credo. Però Polpenazzi esiste, perché qua mi perculano, cioè, bisogna stare attenti. In riva al Piave 10 gradi, ciao Nino. 7 gradi a Monaco di Baviera, cielo coperto. Roma, San Paolo, 11 gradi. Voglio subito salutare la nostra Veronica Gentili. Brrr, fa fa freddo qui a Roma con 11 gradi. 11 gradi, ragazzi, Veronica Gentili. Come stai? Tutto a posto? Abbastanza, brutto tempo. Brutto tempo e va bene. So. Ciao, no, fiorellino. Ma che... buongiorno, governatore. No, attenta qua perché ci sono... Un messaggio d'amore. Mi sono già venduta l'anima al diavolo, hai visto? Mannaggia, vero? Mi sono già lasciata concupire. Tuino, sei il mio battito d'ali. Vabbè, ma capisci, finalmente un conduttore che ti tratta come sì, meriti. Così sì che va bene. Lui non ha nemmeno bisogno di chiamarlo sciocchina, perché non se lo merita. Cara Veronica, ti devo dire una cosa. Hai un'agenda sotto mano? Hai un calendario? Allora, il 7 luglio, tu non lo sai, ma adesso lo sai, sei invitata e sei ufficialmente invitata. Ci sarò io, ci sarà Leonardo Manera. Andiamo tutti a Ripa Teatina, provincia di Chieti. Ti ricordi? Certo. 7 luglio, un venerdì. Aspetta che sto scrivendo sull'agenda, 7 luglio, no, venerdì. Ma tu pensi che sia uno scherzo? No, scritto. Scritto, segnato. Dove andiamo? Ripa Teatina, ti ricordi dove ti avevi? Ho tutto in pugno, provincia di Pescara. No, di Chieti, ho già sbagliato Chieti, anch'io sei tu che hai fatto. No, non anch'io, solo tu. No, sì, l'altra volta ho sbagliato io. Adesso stai sbagliando tu. Provincia... Io ripeto. Comunque è vicino a Pescara, va bene. Perfetto, vicino a Pescara e quindi andiamo in trasferta. 7 luglio, segnato, Ci saranno pullman di ascoltatori che vengono a raggiungerci. Beh, ovvio, insomma, poi daremo... Adesso non è che... Questo è come una sorta di pellegrinaggio al Divino Amore. Esatto, che è un po' come al monte pellegrino, al monte di Ripa Teatina. Andiamo, va bene. Allora, 7 luglio, venderemo anche dei gadget. Adesso inizio a muovermi. Nel frattempo, il 7 luglio, troveremo una squadra che ha fatto il triplete. È la squadra di Federico Novella, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E questo è ciò che ormai ti auguro. Non aspetti altro. Non aspetto altro. Anch'io, tutti a Cardiff. Se vuoi, anche tu. Va bene, Federico Novella, direttamente dal TG4. Buongiorno. Ma buongiorno, stamattina abbiamo ricomposto i ricchi e poveri. Sì, esatto. Sì, è un grande gruppo, un grande complesso che si ricompone questa mattina. Finalmente si rincontrano. Ma guarda, c'è gente che pensa che la voce del governatore che sentivo prima sia finta. Se ancora sia finta. No, la fai tu, come Rockefeller. No, che sei un ventriloquo e fai la voce. No, gratuita. No, è tutto vero. Ed è assolutamente il governatore De Luca che condurre. Ma c'è anche chi crede che tu e De Luca siate la stessa persona, lo sai? Sì, che... vabbè, adesso. Tra l'altro, come Batman, no? Esatto. Identità segreta, certo, allora, di notte. Certo. Quando diventa supereroe si trasforma Basta in De Luca. Basta, uno ordine, ci vuole ordine, ci vuole l'apertura del Parlamento, anche perché voglio subito fare un piccolo quiz a Veronica Gentili, che tu sai ieri, Veronica, che cosa è successo? Cioè la Juve ha perso. Allora, e questa è una grande notizia. Ieri ha perso. Allora, adesso ve lo spiego per bene, perché papà me l'ha detto. Sì. Allora, la Lazio ha vinto due volte contro la Roma di fila, quindi questo non posso non saperlo. Ha vinto due volte di fila. Cioè, in che cosa? Coppa. Che poi sarà la Coppa del Nonno. Per me non è e quindi, avendo vinto due volte di fila, che succede? Dunque, alla Lazio? Adesso, dopo che la Juve, che tu hai poc'anzi detto che è la squadra di fede, io prendo tempo, ha vinto con il Napoli. Sì, no, ha perso per la verità, però ha perso ma ha vinto. Uguale. Ecco, ci spieghi questa cosa. Ha perso ma ha vinto, perché? Ha perso la vita ma... La vita non è tutta un po' così? ragazzi, sembra uno di quegli esami universitari dove non hai studiato nulla. Sono maestra e adesso posso cominciare. Del resto, quante volte avete perso e avete appreso da una sconfitta? Vabbè, esatto, va bene. Veramente... Ritorno, te la spiegheremo la prossima Vabbè, volta. Insomma, però... diciamo la Juventus, pur avendo perso in finale di Coppa Italia contro la Lazio, va bene? Ho capito. Quindi adesso comunque la Lazio deve giocare con la Juve, giusto? La finale. Perfetto. Lì è facile, è una partita. Chi esce con la coppa, vedrai chi alza la coppa, quelli hanno vinto. E quelli che se ne vanno con le facce un po' moge hanno perso. E comunque se non lo dovessi guardare qualcuno lo scriverà su Twitter, no? esatto. Allora, signori, dai, parliamo, buttiamoci nella politica, che abbiamo cazzeggiato abbastanza. Sono le 6:40. Voi non lo sapevate, cari ascoltatori, forse neanche Federico Novella, forse neanche Veronica Gentili, ma c'è un signore, un deputato della Repubblica Italiana, che rischia di diventare la pietra dello scandalo, la causa della crisi di governo. Si chiama Torrisi, non chiedetemi neanche il nome di battesimo. Torrisi, tu lo sai, Veronica, come Salvatore, credo. Salvatore Torrisi è un centrista ed è stato eletto alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, pare per sbaglio, insomma, cioè, diciamo, per alcuni voti segreti che non sono piaciuti al Partito Democratico. Risultato: su tutti i giornali oggi c'è lo scandalo dei renziani. Basta, così non si può governare. E addirittura c'è chi l'ha paragonato all'attentato di Sarajevo, che provocò la prima guerra mondiale. L'ho letto, un paragone, però... ardito, diciamo così. Sì. Ma non potete scrivermi solo un renziano e non il nome. E non c'è scritto. Questo andava dritto in rubrica il lunedì. Non c'è scritto, non c'è scritto. L'ha toccata. Cavolo. Piano. Sentite Guerini del PD, per esempio. Il Presidente del Consiglio farà le proprie valutazioni, insomma. Nessuno vuole drammatizzare, però nessuno neanche vuole sottovalutare. È un incidente che può portare addirittura fino alla crisi di governo, come qualcuno paventava oggi, o questa conseguenza lei l'esclude? Assolutamente non è questa la volontà del Partito Democratico. Non è questa la volontà del Partito Democratico, ma Federico Novella, questo Salvatore Torrisi, dice a Repubblica: se Renzi crea la crisi su questo, gli ride dietro il paese. Io non lo so se questo è vero, ma aiutaci a interpretare. Sì, diciamo che non mi sembra una causa per provocare un terremoto. Adesso non lo so, poi magari domani succede di tutto. A questo signore hanno chiesto di dimettersi perché è arrivato, non doveva essere presidente. Credo che lui abbia risposto a tutti con una pernacchia, almeno sul Corriere della Sera. Ha detto: no, io sono bravissimo, io farò il presidente perché sono bravissimo. Vabbè, in Italia, se ti prendi una poltrona, mollarla, cioè inchiodarti lì. Ecco. Guarda, l'unica cosa che mi viene da dire è che questo signore è stato eletto con un voto segreto. Ora vogliamo cominciare a dire che i voti segreti dovrebbero abolirsi alla Camera, perché i voti segreti, per chi non lo sapesse, servono ai deputati per prendere delle decisioni libere su questioni di coscienza, che ne so, l'aborto, il testamento biologico, altre questioni. Ma non nobili, su nominare il Presidente della Commissione. Ma non a fare su Presidente della Commissione, perché sennò poi servono a fare questi giochini politici che annoiano tutti, diciamo, che non interessano a nessuno e che servono ai franchi tiratori a freddare i nemici nell'ombra. Allora aboliamo i voti segreti, facciamo le cose in trasparenza, no? Almeno una volta. Che Veronica, che dici? Perché sì, è stato un voto segreto. Può evitare il voto segreto, secondo me, anche sulle questioni di coscienza, ho sempre pensato, perché non vedo cosa ci sia da vergognarsi quando si vota in coscienza. Quindi anche su questioni come i diritti civili uno può sempre votare mettendo la propria faccia e non c'è niente di male. In questo caso però alimenta quello, cioè traduzione di quello che è successo ieri, quella che fu chiamata accottaglia ai tempi del no. Tutti quelli, il sacro fronte della pro legge proporzionale, quindi quelli che si sono stufati di vedere Renzi fare il bello e il cattivo tempo, ieri chi per una ragione e chi per un'altra hanno votato insieme, e il messaggio che se ne vince è: non si fa come dici tu, sempre come quando vuoi tu, perché la ragione per cui lui voleva un suo uomo alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, che doveva essere questo Pagliari, era poter gestire meglio le vicende della legge elettorale, più che altro gestirne la tempistica. In sintesi, lui pensava di proporre il Mattarellum al volo, nel momento in cui non fosse passato si andava con l'Italicum rivisitato, il cosiddetto Legalicum, da capire poi se con i capelli sta bloccati o no. E si andava direttamente alle urne, perché lui ancora non molla la fantasia. Vabbè, di andarci. Diciamo che però una crisi politica per questo incidente politico è una cosa che veramente pochi capirebbero. La crisi politica nasce dal fatto che Renzi non tollera che si sia ricreato questo si sa, è chiaro. Renzi dice una cosa, dice: Pagliari era il candidato del Partito Democratico, è stato, e quindi impallinato. È stato impallinato. Il problema è: che cos'è oggi il Partito Democratico? Esatto. È un partito solo? è un partito che possa esprimere una linea su un uomo? No, ma attenzione, però la presidenza degli affari costituzionali è importante perché lì si decide la legge elettorale, eccetera. Quindi non è che politicamente sia secondario come ruolo. Certo che gli italiani fanno un po' fatica a capire. Il signor Sorrisi deciderà da solo, né che le funzioni che svolge il presidente siano di rimessi. Ma è chiaro che è un pretesto. Inciderà molto, perché si possono poi rimandare le riunioni, vengono indette in date piuttosto che in altre, quindi questa cosa fa sì che si generi automaticamente un rallentamento dei tempi che invece lui vorrebbe incalzare. Sì, e poi è chiaramente un pretesto politico per fare qualcosa. Però devo andare al traffico e poi devo dire che c'è un affetto così spropositato da parte dei nostri ascoltatori con messaggi nei confronti di Flavio Briatore, cioè questa cosa dei 1300 euro come si fa a vivere ha proprio colto nel segno, un calore umano nei confronti di Flavio Briatore, oserei certo dire. Certo che Briatore però ce la mette tutta. Tra poco ripartiamo da lì, dai, tra poco. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico, mandalo, vai. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta. Buongiorno Alessandro, in macchina a Milano fanno 19.5 gradi. Che bei, da Secciuk, eh? A Milan, ipocrita, chi è che fornisce il gas al dittatore siriano? Dillo, ipocrita, tutto il mondo occidentale, pezzino di merda! Comunque, ora ogni settimana do il voto, farò il pallone d'oro dell'antipatia di questa trasmissione. Questa settimana, prima da Veronica Gentili. Tutte le settimane te la mando. 1000 messaggi e 1000 minuti da seguire. Ciao! Andiamo anche all'estero per lavorare, per imparare un lavoro, perché se mi dite che 1200 euro, 1500 euro sono un traguardo, ma io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese, onestamente, se quello è il traguardo. L'abbiamo rimesso perché se non si fosse capito. Intanto il pallone d'oro, ma tanto non sa neanche cos'è il pallone d'oro, Federico Novella. Cioè, per il pallone d'oro. Ma noi diamoglio, pensa che sia una roba da sfoggiare al collo, così si mette. Oh, una cosa, pallone d'oro. Di palloni d'oro. Beh, vado lì sul tappeto rosso con il pallone d'oro. Bello, cosa pallone mette d'oro. Al collo. Mi piace il pallone d'oro. Dell'antipatia. Anacleto, sei tu Anacleto. Perché non la fai una bella Anacleto, why are you Anacleto? Lo vuoi in shakespeariano? Devo lavorarci, mi preparo. Va bene. Allora, Briatore, l'ho rimesso perché sì, c'è grande affetto nei confronti di Briatore. All'inizio ha detto anche 1500, Federico, poi ha abbassato un po'. Un po' il tiro. Leggici qualcosa, dai, si può leggere qualcosa? Sì, guarda, sono un infermiere, guadagno 1300 euro, ma che lavoro fanno i dipendenti di Briatore? Comunque Briatore fa ma cambio, poi si vede come vive a 1300, un altro ascoltatore. Questo parla della Rubentus, ma non c'entra con Briatore. Forse Briatore voleva dire una cosa. Briatore. Però ecco, vedi, Briatore però critica la mancanza di ambizione, non i 1300 euro in sei. Ha ragione. Bravo. Cioè, lui voleva dire una cosa sensata, però. Però l'ha detta in maniera forse un po' inopportuna. Lui sta dicendo svegliatevi, ragazzi, perché certo, fuori dai confini italiani lo stesso lavoro viene pagato quasi il doppio. Se però non volete uscire perché volete stare vicino a non avete le palle per uscire dalla casa di mamma e papà, e allora vi tenete i vostri 1300 euro. Bravo, mi piace Federico. Federico Novella, adesso vi diamo tutti gli account di Federico, per fargli passare. Diamo tutti gli account di Federico per far passare una bella giornata anche a lui sui social. Fede carinamente si è immolato a tradurre quello che ha detto. Ma no, ma ha ragione. Ha ragione. Bombing anche a me. Ha ragione Federico Novella. Ha ragione su questo Briatore. Andate all'estero, aprite gli orizzonti. Sciocchina, già versi in una situazione precaria, perché vuoi peggiorare la tua situazione? Ma guarda che l'estero per Veronica è il paesino in provincia di Chieti, dove dovrà andare a luglio. Esatto, per me già quello è estero, già il grande raccordo anulare mi crea dei problemi innanzitutto. Cioè, già a Tivoli si sente un po' strano. Pensa se devi andare a trovare la Lussana. Io per andare a Tivoli prendo il passaporto, quindi per favore non mi mettete in difficoltà. Secondo, ora voi siete carissimi a cercare di tradurre quello che dice Priatore, però è come cercare di tradurre quello che ha detto Poletti l'altro giorno. È vero che Briatore non è Poletti, almeno non riveste una posizione ministeriale, se non altro c'ha questo. Però andare ogni volta a sfrugugliare degli argomenti, tu puoi fare un discorso senza scendere nelle cifre dicendo come si fa a vivere con 1300 euro al mese, perché la gente si ride in faccia, dicendo bisogna seguire le proprie forse ambizioni. il finale è stato un po' infelice, perché sembrava, cioè dice dai, buttatevi, andate, guardate che all'estero guadagnate di più, non accontentatevi di 1300 euro, ecco, no, ma è messa vero così, l'ambizione è vero tutto, anche dopodiché va bene l'estero TV, quello che volete, ma non è che dappertutto è l'Eldorado e qualunque persona parte, no, va all'estero, certo, guadagna delle cifre, no, come lui racconta, 5-6 mila pound, e quindi ti metti a casa, capito, questi 7 mila euro netti in tasca, certo, perché qui raccontiamo dei mondi che non esistono, anche qualcuno volesse credergli, giovani appena... Però guarda, c'è una rivolta, laurea. c'è una rivolta, vedi, Briatore ha ragione e anche Federico Novella, guarda che arrivano i messaggi, Federico, dai, è il tuo momento! Sono diventato il socio di Briatore. Senti, vedi, quest'altro, perché Briatore non si compra la Gentili, se la porta via da... Via! Bravi! Gentili non ha prezzo! Gentili non ha prezzo, giustamente. Sì. Soprattutto perché per farmi comprare da Briatore, se no, ragazzi, vi prendo come agenti, facciamo una trattativa estenuante. Tra l'altro è arrivato il selfie di Veronica Gentili, voglio ricordare, col calzino bianco in fondo. Ecco, allora, Ari, anche io sono in casa, così vi do questo calzino bianco un po' domestico. Sì. Sei pregato col mio selfie di andare a trattare con Briatore e vedere quanto prendi. Va bene, io ho ritweetato il tuo selfie. Ma signori, abbiamo iniziato da un po' di tempo una straordinaria rubrica, che è una rubrica che ci porterà a grandi successi, a vincere anche un premio Pulitzer, credo, per la satira, il sarcasmo, l'ironia, la leggerezza, l'infotainment e tutto quant'altro. E anche il giornalismo d'inchiesta. Ed è Le metafore di Bersani. Riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. La metafora di Bersani. Ogni giorno ne proponiamo una, o quasi ogni giorno i nostri ospiti ci aiutano a interpretarla. Ecco qua quella di oggi. Attenzione! Ma Renzi, nel caso, si mette a disposizione dell'Italia e io anch'io. Siamo mica qui a fare in due una briscola. A fare una briscola. Ma io giocavo a briscola in due con mia mamma quando ero piccolino. Secondo me è una versione della briscola in due. Io giocavo a briscola in due con mia mamma, quindi non la capisco neanche tanto quando ero piccolo. E vincevo. Io non so come si fa a giocare a briscola in due. Solo in due, almeno in quattro di solito, però sì, in genere. Non sono sicuro, sai? In genere. Ma non so. Ma non vuol dire invece che la briscola la fai tu e non bisogna essere in due per farla? Cioè chi tira giù la carta è uno? Sai che mi hai complicato la metafora di Bersani, era più chiara prima. Panico, e adesso si è creata una nebulosa. Invece, cioè, tu dovresti chiarirmi le metafore di Bersani, non è che me le devi complicare, perché... Dov'è il bello, altrimenti abbi pazienza. Lo so, va bene. Non siete stati molto utili. Che lui volesse dire. Sì? Non perdiamo tempo a giocare a briscola in due, perché è inutile. Se ci sono gli altri due, è inutile. Cioè, credo, forse. Solo in due non si va. Si gioca anche in due, abbiate pazienza. Ma in realtà, no, lo facevo io con mia mamma. Emilia, bisogna essere in quattro. Scusa, in Emilia si gioca in quattro. Dai, ma la versione emiliana. È come scopone scientifico, uguale. Cioè, gioca Lorenzo Nespoli, che gioca in tutte le mezze bische di Milano, dice che la vera briscola è in cinque. Ma questa come non cinque, ma come? La briscola chiamata, cioè, vabbè, insomma, ragazzi, vi lascio con questo dubbio. Federico Novella, il TG4 e Veronica Gentili, Fatto Quotidiano, nostra pensatrice, tutti a Ripa Teatina il 7 luglio. Intanto ti mando un abbraccio. Bravi, continuate così. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3. TrentoDoc.com. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Poi all'inmila e lì gestisci una lancia notizia mia. 24 mattino. Signori, sono le 7:20 minuti e siamo in diretta qui a Radio 24, la radio più bella del mondo, lo sanno in tutto il mondo, con le notizie lette dai giornali, la rassegna stampa. C'è Carmelo Lauricella in regia, non l'ho neanche detto, oggi l'Alpino, dove si è perso? Ha lasciato la penna nera, alla ricerca della penna nera. E invece il nostro Carmelo Lauricella è lì che lotta in regia insieme a Lorenzo Nespoli in redazione e ai giornali che andiamo a leggere. Adesso Alessandro Milan, vi leggerò il giornale. Dai, pronti? Sentiamo cosa è successo oggi, dai. Andiamo Milan, andiamo, dai, dai. Dai, va bene. Oh, se mi date la possibilità, vado, ok. Siamo a giovedì 6 aprile. E l'apertura del Sole 24 Ore, la rottamazione cartelle incassi a quota 5 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Corriere della Sera si focalizza sull'America. Trump cede via lo stratega, rimosso Steven Bannon, il falco del bando antislamici. È un po' la vittoria dei militari, scrive il Corriere. Per Repubblica invece la possibile crisi di governo per una vicenda politica di ieri che tra poco spiegheremo. Legge elettorale, trema il governo, la maggioranza a sorpresa tradisce il candidato di Renzi alla presidenza degli affari costituzionali e Renzi dice ora intervenga Gentiloni. Le altre aperture invece, vediamo quella della stampa, il PD va sotto, 20 di crisi sul governo, il messaggero strappo al Senato, 20 di crisi. Mentre per il giornale casa, ticket e stipendi ci mettono le mani in tasca, il fisco senza pietà. Libero il piano di Gentiloni per stroncare il cavaliere. Berlusconi deve sparire. La presidenza del Consiglio si costituisce parte civile nel processo Rubiter. Mentre la verità, nuove banconote, nuova trappola, ci fregano i risparmi cambiando gli euro. La BCE ridisegna i biglietti da 50, quelli vecchi finiranno fuori corso. Significa che bisognerà spendere o comunque riportare alla luce del sole il gruzzolo messo da parte. Temete, avete il gruzzolo da parte, sotto le botole, in casa, nelle vostre fabbriche, nelle vostre cantine, chi lo sa. Vabbè, Avvenire, Siria, tante condanne ma nessun colpevole, questa è l'apertura. Mentre il Fatto Quotidiano, la lobby del tabacco, arruola Mattarella figlio al ministero. Bernardo Mattarella firma un parere legale per conto della British American Tobacco e questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Allora, quanto guadagnate? No, non voglio saperlo, però Briatore, abbiamo sentito ieri a Carta Bianca da Berlinguer, ha detto invogliando i giovani ad andare all'estero dove si guadagna di più per posizioni simili a quelle che occupate in Italia. Poi se ne è uscito con una frase che suonava molto infelice, dire... Anche perché non capisco come si possa vivere con 1.300 euro al mese. Cioè, una cosa che Briatore per lui è fuori di ogni concezione. E ovviamente ha scatenato già un'ira non male. No, ve lo chiedo lo stipendio perché la Corte dei Conti ha sancito in un rapporto che i salari vostri sono dimezzati dalle tasse e in questo l'Italia è ben sopra la media europea. Pagina 2 del Sole 24 Ore, Roberto Turno, tutti i dettagli. Il cuneo fiscale 10 punti sopra la media europea. Cuneo fiscale, cioè quello che perdiamo poi sul salario. Le tasse sulle imprese pesano il 25% in più della media europea. Il cuneo fiscale è 10 punti più pesante rispetto ai partner europei. I servizi pubblici sono sempre più rari ma più costosi. La spesa per le pensioni da tenere stretta al guinzaglio. Quella per la salute che migliora i conti ma peggiora le cure. La Corte dei Conti certifica insomma che c'è una ripresina, ma è meno fragile, più qualitativa e che per l'Italia si può cominciare a parlare ma con cautela di un'inversione di marcia. Ma in questo rapporto 2017 ci sono alcune cifre che pesano tantissimo. il peso del carico fiscale ormai insostenibile, non accenna a perdere peso, la pressione fiscale al 42,9% è tra le più alte d'Europa, l'apice per le imprese, cosicché il total tax rate stimato per un'impresa di medie dimensioni testimonia di un carico fiscale complessivo che penalizza l'operatore italiano in misura eccedente quasi 25 punti l'onere per l'omologo imprenditore dell'area Unione Europea. E poi c'è il cuneo fiscale, la bastonata del cuneo fiscale, fattore storico di freno per l'economia. In Italia è ben 10 punti superiore alla media, con un 49% che viene prelevato a titolo di contributi e imposte. Insomma, se avete capito, il vostro salario per metà se ne va così, fra imposte e contributi, 10 punti oltre la media dei paesi europei. Anche Repubblica, anche Avvenire, metà degli stipendi in tasse e contributi. Per questo vi ho chiesto quanto guadagnate, poi dividete la metà e trovate quello che vi rimane in busta paga, praticamente. Non è una regola generalizzata, però questo è. A proposito di stipendi, o meglio di, se volete, welfare familiare, di quello che si guadagna e di come si vive all'interno delle famiglie, oggi vi segnalo una bella inchiesta del Corriere della Sera sui figli badanti. È Lorenzo Salvia che la firma, pagina 20 e 21. Sapete quanti sono gli italiani che in casa assistono i genitori, quindi non si affidano ad altre persone, non si affidano ai badanti, ma lo fanno loro come figli? 1 milione di italiani. Assistono i genitori non più autosufficienti. C'è una proposta di legge, casualmente ferma in Senato, come tante proposte di legge che riguardano tante persone, per garantire loro i contributi della pensione. I figli badanti, questo è il titolo. Eroi per casa. Figli che prendono un pezzo della loro vita lo regalano ai genitori ormai anziani, come si faceva una volta, quando i vecchietti in casa erano la regola e nessuno la metteva in discussione. Come si fa ancora adesso, in silenzio, incastrando gli impegni di una vita che nel frattempo è diventata più complicata. Sono storie di amore, dedizione, quelle dei parenti badanti, storie di sacrifici, rinunce, a volte di eroismo, spesso di sofferenza, in silenzio anche questa. Le stime dicono che almeno 1 milione di italiane dedicano un pezzo importante delle loro giornate e nottate ad assistere parenti non più autosufficienti, un numero simile a quello delle badanti di professione tra regolari e in nero. Seduti in salotto, vicino al letto, passano ore e ore coi genitori che la malattia o anche solo l'età ha fatto tornare bambini. Ecco, il Corriere della Sera in questo caso li chiama gli eroi per casa. Non per caso, saranno sempre di più. Alcune ragioni sono intuitive, la vita media si sta allungando, altre sono più sottili, e cioè il punto decisivo è la speranza di vita senza limitazioni nelle attività. E quindi saranno sempre di più, e giustamente il Corriere della Sera fa un focus su queste persone. A proposito invece di soldi, quanti ce n'è costato lo sciopero ieri a Milano per il Salone del Mobile, no? Scioperare da parte dei mezzi pubblici, dei sindacati dei mezzi pubblici, anche se 4 ore credo, non tutta la giornata, nel giorno in cui, nella settimana in cui c'è il Salone del Mobile a Milano, che è uno degli eventi che sposta il maggior numero di persone del mondo che convogliano su Milano, e sui giornali ci sono le foto di tutte le persone in fila all'ingresso delle metropolitane, il Salone, la città a piedi, il Corriere, sindacati da buttare, è più duro, Libero, tutto il mondo va a Milano e loro scioperano, ma anche il Sole 24 Ore, Marco Morino in prima pagina, una brutta figura di fronte ai milanesi che hanno dovuto sopportare disagi a raffica per il blocco di tram, bus e metro, di fronte agli ospiti internazionali che sono in città per il Salone del Mobile, un danno d'immagine proprio quando Milano cerca di imporsi l'attenzione nel mondo come polo d'attrazione turistico e culturale. Questo è l'inizio dell'articolo di Marco Morino per raccontare, insomma, questo sciopero di cui, come al solito, si capisce poco nella tempistica, nella modalità, per carità, le ragioni dello sciopero, sempre sentire le ragioni dello sciopero, ci saranno, sono garantiti gli scioperi, è stato fatto bene. Il danno d'immagine, anche quello forse è stato fatto per la città agli occhi del mondo, ma magari per chi ha fatto lo sciopero no, non è una cosa così importante. In ogni caso, siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. Si parla tanto di sicurezza, il caso di Budrio. E nel Vicentino, Serenella Bettin racconta oggi sul giornale, a pagina 14 e 15, una storia abbastanza emblematica che riguarda il marocchino Mustafa El Haji, 27enne, cacciato dal comune di Mussolente nel Vicentino, foglio di via dal questore, reati in serie. Per esempio, una volta ha rubato una bicicletta, e vabbè, insomma. Però quando è stato beccato ha reagito a calci con il proprietario, 16 mesi di patteggiamento di carcere, 400 euro di multa, evita il carcere ovviamente, passano pochi giorni e durante una lite frattura la mano a un poliziotto che tenta di identificarlo, altri 4 anni di reclusione, ma non va in carcere, rimane fuori, reati in serie, alla fine arriva l'espulsione, ma lui che fa? L'amore, l'amore, l'amore, si sposa. Sposa una cittadina del suo paese, italiana, e il giudice gli concede di restare perché il provvedimento di espulsione viene annullato per tutelare il legame affettivo e quindi, graziato per questo, rimane in Italia. Reati in serie, foglio di via, espulsione per un marocchino, ma lui si sposa e il giudice gli concede di restare. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Alessandro Juve, il cugino cleptomane di Alessandro Milan. Questa ha un tocco geniale, non so quale, vorrei risentirla 5.000 volte, ma ha un tocco geniale, non capisco quale. Alessandro Juve, il cugino cleptomane di Alessandro Milan. È questa idea del cugino, evidentemente, che mi fa molto ridere. Non lo so. Comunque, se volete mandare la vostra sigla, lo sapete, al 349-238-6666 via WhatsApp potete fare cose geniali come questa, o magari meno geniali. Però, ecco, mandatele. Allora, dobbiamo spiegare cosa è successo politicamente ieri. E pare che sia successa una cosa molto grave. Allora, il fatto è che è stato votato il nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali. Il PD aveva un candidato, ma quel candidato è stato impallinato. Ha vinto, infatti, ed è stato eletto nel segreto della votazione dei parlamentari all'interno della commissione, Salvatore Torrisi, 59 anni, di Alternativa Popolare, cioè il partito di Alfano. E che succede? Il candidato ufficiale dei Dem, invece, Giorgio Pagliari, si è fermato a 11 voti su 17 potenziali senatori schierati con la maggioranza. Vuol dire che qualcuno nel segreto, nel voto segreto, non l'ha votato. Da allora è partita una battaglia, una serie di dichiarazioni da parte dei renziani e di Renzi stesso, non pubblicamente ma nei famosi retroscena, di attacchi molto duri. Si parla di 20 di crisi di governo. Il retroscena forse più interessante è quello di Goffredo De Marchis in prima pagina di Repubblica e poi continua a pagina 3. Guardate qui. Prove di forza sull'orlo della crisi. La legge elettorale ce la scordiamo, ma c'è anche un problema per la maggioranza di governo. Cosa fa Gentiloni? Come pensa di andare avanti così? Con queste poche parole filtrate, Matteo Renzi ha scatenato la reazione dei fedelissimi, puntando dritto stavolta al cuore di Palazzo Chigi e del Premier. Ha trasformato la sconfitta incassata in Commissione Affari Costituzionali al Senato nel secondo round del confronto scontro tra il PD renziano e il governo, dopo quello ingaggiato l'altro ieri con il ministro dell'economia Padoan. E si racconta in questo retroscena che continua a pagina 3, dal titolo Renzi a Gentiloni, come si va avanti così, di un appello al Quirinale, di un Gentiloni molto infastidito. Il Premier, racconta De Marchis, era molto infastidito sia per i resoconti del rapporto tra PD e ministro del Tesoro Padoan E poi, dopo l'elezione di Torrisi alla Commissione Affari Costituzionali, il rapporto si è ulteriormente intesito viste le reazioni dei renziani. Gentiloni sa bene di avere sulla linea dura le spalle coperte dal Presidente della Repubblica Mattarella. Alcuni gentiloniani rivolti a Renzi dicono: questa il Presidente non gliela fa passare liscia. Anche perché il PD renziano avrebbe ufficiosamente chiesto un colloquio con il Presidente della Repubblica, un colloquio che ha sorpreso molto il Colle, una reazione sproporzionata rispetto al problema, a meno che il PD non ci voglia comunicare che il governo non può più proseguire, è stato il commento del Quirinale. Ma comunque sono retroscena, ma come vedete si parla di una crisi ipotetica. Renzi, frattura insanabile, il titolo del giorno, sono tutte frasi attribuite, retroscena, il pressing per votare subito, guardate anche La Stampa, Ugo Magri e Fabio Martini, Renzi cerca la resa dei conti, ma deve convincere il Colle, tutto per l'elezione del presidente della Commissione Affari Costituzionali, che non è il democratico che voleva Renzi, ma Salvatore Torrisi di Alternativa Popolare, che rilascia un'unica intervista a Repubblica. Figurarsi se mi dimetto. Dimettermi. Io l'ho detto ad Alfano. Trovate una soluzione alternativa e io passo. Ma se non c'è? Eccolo qua. È il giorno da leone della pecora di un'intera legislatura. Salvatore Torrisi, avvocato di Paternò, 60 anni a novembre. È già sera, si ferma nella sala antistante l'aula fine lavori e dice: ma che dovrei dire? Più volte il mio gruppo mi aveva proposto per altri incarichi. E poi mi sono sempre fatto da parte in questi anni. Ora perché dovrei farmi da parte? Perché il suo segretario Alfano le ha chiesto le dimissioni, per esempio. A lui e agli altri dico che la soluzione c'era già. Attorno al mio nome si registrava da tempo il più ampio consenso, da Calderoli ai Grillini. Se il PD mi avesse votato avrei avuto 24 voti, non solo 16. Invece qualcuno si è incaponito. A lei si riferisce a Renzi? Ma guardi che i renziani minacciano la crisi di governo per la sua elezione. E qui, secondo me, Salvatore Torrisi dice, fa una risposta che potremmo sottoscrivere tutti. La crisi di governo per me? Se Renzi apre la crisi per la mia elezione, il paese gli ride dietro. Adesso non lo so se l'intero paese riderà dietro, ma anch'io pensare che cada un governo perché, come ha detto un renziano, e lo si legge nel retroscena del Corriere della Sera, udite udite, questa elezione è paragonabile all'attentato di Sarajevo che provocò la prima guerra mondiale. Io vorrei sapere chi è il renziano con nome e cognome che ha detto una frase del genere. Cioè, l'elezione della presidenza della Commissione Affari Costituzionali paragonata all'uccisione dell'arciduca Ferdinando da parte di Gavrilo Princip, per cui è nata la prima guerra mondiale. No, noi se ci rendiamo conto del peso delle parole per due secondi, forse ci rendiamo conto che, insomma, non c'è proprio sempre diritto alla minchiata, ecco, nella parola. Se no, mettiamolo per principio e andiamo avanti così. Non so cosa ne pensa il nostro Mauro Meazza, ma ecco, su questo diritto alla minchiata gli do la parola. Ti ringrazio, Alessandro. No. Devo dire sto scherzando. Sai che mi piace stuzzicare. Come James Bond, non la licenza di uccidere, la licenza di dire minchiata. Ecco, allora, esatto. Vabbè. Se posso prendere licenza, ma come no? Hai sentito la sigla che è delle 7:35 che mi annuncia? Sì, mi è sembrata molto carina. Non era male, questo paragone col cugino mi è piaciuto, insomma. Sì, il cugino effettivamente diceva la sua, sì. Sempre nel diritto di dire quella cosa lì, insomma, che dici tu. Vabbè, senti, facciamo una cosa così, adesso un minuto senza dire minchiate, sì. Prendiamo questo impegno. Hai già detto del cuneo fiscale, ne parliamo oggi a pagina 2 del Sole 24 Ore, il peso sui nostri stipendi, anche sul tuo naturalmente, caro Alessandro, dimezzati. Ti vorrei segnalare poi, anche a mettersi in proprio, avviare un'impresa, non è che ti vada meglio, perché il total tax rate, che è una formula inglese per dire tutto quello che paghi tra tasse, imposte, contributi, sta più o meno al 65%. che non è male, insomma, come livello di prelievo, soprattutto perché è 25 punti sopra la media degli altri paesi, delle imprese paragonabili nell'area euro. E quindi, vabbè, meditiamo su questo, che non è una minchiata. Poi della rottamazione, naturalmente, trovate tutto a pagina 3, ottime prospettive per gli incassi, ma io ti vorrei invece parlare delle etichette semaforo, sì, sai, che quelle che gli inglesi hanno sperimentato e adesso si vorrebbe introdurle chissà anche in Europa. Ovviamente queste etichette sono un pochino una minchiata perché non tengono conto. L'hai sdoganato tu sto termine? Lo so, una volta però l'ho sdoganato adesso. Una volta, ma insomma tra cugini ci ascoltano i bambini, ricordati. Allora è un po' una stupidaggine, questo è un po' una stupidaggine, perché evidentemente se non tiene conto delle dosi, ma ti spieghiamo tutto nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. L'ape, te lo ricordi l'ape? Come no? E anche la Rita? Sì. Rita no, non è una signora o signorina, è la rendita integrativa temporanea anticipata che il fondo pensione ti può erogare se tu hai i requisiti per l'ape. Allora è tutto in lavorazione. Quindi stiamo calmi, arriverà, tu leggi religiosamente norme e tributi, Davide Colombo ti aggiorna sullo stato di emanazione dei decreti per l'APE, per l'anticipo della pensione, e sul funzionamento della RITA, la rendita integrativa finanziaria anticipata. Naturalmente hai già citato la questione, ahimè, dolorosa dello sciopero di ieri, ma si lega al Salone del Mobile. Allora, buone notizie dal bonus mobili, che si spera venga reso permanente, ne hanno già usufruito in 573.000. Tu hai usufruito il bonus mobile, lo sconto fiscale per i mobili? No. Beh, potresti anche vedere se riesci a farlo quest'anno. Infine, ma non per questo meno importante, due questioni per così dire finanziarie. L'Unione Europea dice che forse bisogna ripensare il bail-in, perché ogni Stato l'ha un po' così interpretato a suo modo. La questione è molto seria, anche se sorridiamo, perché colpisce il fatto che ci sono stati, specialmente in Italia, dei problemi molto pesanti proprio con le banche che sono ritrovate in questa normativa. E poi un domani potremmo pagare anche micropagamenti, naturalmente, col WhatsApp. Se vuoi cominciare a girarmi qualche cosa, hai già il mio numero. Ti pago un caffè, caffè pagato. Vabbè, insomma, sempre meglio che niente. E allora, scusandoci per il turpiloquio, ma caro Alessandro, auguriamo a tutti gli ascoltatori l'abituale traffico! Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Alessandro Milan, addirittura. Addirittura, questo è. Allora, siamo qui alle 7:48 minuti. Il tema privatizzazione è ancora un tema molto caldo che sta vedendo contrapposti il ministro Padoan e il Partito Democratico. Vi invito per questo a leggere il retroscena di Francesco Verderami oggi sul Corriere della Sera, pagina 11. Privatizzazione, il ministro resiste, si devono fare e quindi si faranno. Questo è il titolo. Per il titolare del Tesoro è ormai una questione di credibilità, e racconta Verderami che sono riprese a circolare le voci sulla tentazione di Padoan addirittura di uscire dal campo, di abbandonare, una cosa che però non verrà fatta, anche e soprattutto alla vigilia del DEF e della manovra correttiva che ci chiede l'Unione Europea. Però il tema centrale, il nodo della contesa col PD sono le privatizzazioni. Lo si capisce, scrive Verderami, dal modo in cui il sottosegretario Giacomelli si raffigura sdraiato sulle rotaie, così tra virgolette, pur di evitare che si proceda alla privatizzazione sulle Poste. Per quel che riguarda invece la testa politica di Padoan, non può essere messa sul piatto, ma il PD continua a chiedere che venga allungata la moratoria sulle privatizzazioni iniziata un anno fa. Il ministro invece tiene duro, è fermamente contrario, e non solo perché, virgolette, siamo sotto la lente di osservazione dell'Europa sull'attuazione delle riforme, ma soprattutto perché avremmo problemi con i mercati, vissuti ormai dai renziani come un Moloch senza volto e senza nome, eretto a cassazione dell'economia e delle finanze degli stati. Di qui la volontà di chiedere a Padoan: ma rinviamo ancora di un anno, cosa ci costa sulle privatizzazioni? La risposta in questo retroscena di Padoan è: ci costerebbe la credibilità. E la credibilità vale moltissimo per un paese come il nostro, esposto com'è per via del suo debito pubblico. Ecco allora che questo è il braccio di ferro con Padoan, che dice: si faranno, vedremo nel DEF settimana prossima. Intanto, se andiamo all'estero, vi segnalo che sulla vicenda del gas in Siria c'è ovviamente adesso la discussione su chi abbia provocato queste morti, soprattutto di bambini. Da una parte ci sono le testimonianze, il Corriere della Sera raccoglie quella dell'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, con il racconto del capo missione italiano Massimiliano Rebaudengo, capo missione dei Medici Senza Frontiere in Siria. Racconta la giornata in cui sono morte 75 persone a Khan Sheikhoun, nel nord della Siria. Chi è stato? Per gli Stati Uniti è stato Assad. L'ambasciatrice all'ONU degli Stati Uniti ha fatto anche questa scena, mostrando proprio le foto dei bambini morti, scena anche, come dire, plasticamente drammatica. La Russia invece si schiera con Assad, d'altronde la Russia è lì in campo e dice: è stato bombardato un deposito dove i ribelli custodivano gas, e quindi, come dire, è stato un bombardamento distruggendo anche un edificio che conteneva il gas, quindi la responsabilità, se volete, è quella dei ribelli che tenevano il gas. Sotto questo punto di vista non si fa un centimetro di passo in avanti sulle responsabilità. Il dato di fatto è che i morti sono incontestabili e ci sono stati, come sempre, la prima vittima in tutte le guerre, si dice, è la verità, e questo è vero, e la seconda sono i morti civili, che non c'entrano nulla. In tutto questo, sempre dall'estero, dagli Stati Uniti, c'è la notizia con cui, per esempio, il Corriere della Sera apre, ma è una notizia importante, cioè Donald Trump ha silurato Steve Bannon, che è il suo consigliere più duro, quello del bando anti-islamici, che non si chiama bando anti-islamici, ma di fatto è un bando anti-islamici. E quindi Trump ha dovuto cedere ai militari. Il suo Rasputin è stato fatto fuori, ridimensionato, anche se dalla Casa Bianca dicono: no, ma era venuto solo per delimitare i perimetri del Consiglio di Sicurezza attorno a Donald Trump, ha finito il suo lavoro. In realtà è stato, secondo molte indiscrezioni, rimosso perché è troppo falco, ecco, diciamo, mettiamola così, troppo interventista. Vabbè, se torniamo in Italia, la cronaca ci regala questa vicenda in provincia di Pavia di questa ragazza frustata per i vestiti all'occidentale. Stanno, come dire, esondando adesso casi di cronaca di questo genere. A Pesaro 10 donne che hanno denunciato di essere cresciute in famiglie musulmane in maniera, insomma, violenta, in quanto si volevano adeguare agli stili di vita occidentali. Ora, e c'è su tutti i giornali la vicenda, frustata per i vestiti all'occidentale, non sei come noi, meglio se muori, picchiata dal fratello e dal padre e tolta dunque alla famiglia, succede a Pavia, o meglio in provincia di Pavia. È l'apertura addirittura del Giorno, frustata per il velo, il titolo di prima pagina. Va bene, dai, chiudiamo con la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, questo, cari bambini, adesso quando voi metterete giù direte: ma cos'è? Perché? Che cos'è questo termine? Cosa significa, cara mamma, caro papà? La castità fa bene alla salute, una pagina di Libero, basta non esagerare. La castità fa bene alla salute. Cos'è la castità, papà? La castità? Ma chi se ne frega!